Naturalmente io ora non vi farò una, data anche l'ora e la stanchezza, e il professor Quacquarelli giustamente mi richiama all'ordine, non vi aspetterete certamente da me una recensio precisa delle varie relazioni che sono state tenute qui sia ieri pomeriggio e stamattina. Non perché non abbia, è vero, con molta attenzione seguito e postillato le singole relazioni, ma solo appunto per motivo di tempo. Però dovendo dire qualche cosa, ebbene, come sempre, ogni intrapresa va giudicata per i fini che questa intrapresa si propone. Questo convegno, che a mio avviso è stato a un buon livello, ha come titolo Motivi letterari ed esegetici in Gerolamo. Non a caso, io penso, gli organizzatori del convegno non si sono limitati ai motivi letterari. E qui veniamo anche alla osservazione che è stata fatta stamattina da Monsignor Roger, cioè se fosse soltanto motivi letterari in Gerolamo, ecco, allora noi dovremmo essere paghi attraverso una serie di contributi di dare una valutazione letteraria di Gerolamo. Però voi sapete meglio di me che noi possiamo studiare quanto vogliamo, ma non è che riusciamo in qualche maniera a modificare quella che è una consolidata valutazione letteraria. Possiamo dire che in alcuni luoghi è più satirico, in altri è più umoristico, in altri è più serio, in altri è più sferzante, pungente, che lo stile talora è di un livello più alto, altre volte è di un livello più basso. Però la critica letteraria fine a se stessa, tutto sommato, non interessa neppure a noi che professiamo un insegnamento che si chiama letteratura cristiana antica. Detto questo, però, devo anche soggiungere subito, e sempre a scanso di equivoci, che tutta la ricchezza esegetica, spirituale, umana di un autore viene veicolata attraverso l'espressione letteraria delle sue opere. Quindi incontri di questo tipo, nel quale ci siamo un po' tutti affannati a vedere quali erano le fonti, poi magari ne abbiamo aggiunto qualcuno in più, oppure abbiamo spostato l'accento su una fonte piuttosto che su un'altra, tutto questo lavorio in effetti ha come obiettivo finale quello della comprensione sempre più approfondita di un autore, comprensione che passa attraverso l'analisi intertestuale, stilistica, strutturalistica, come volete voi, insomma. Ogni tipo di critica è una delle tante chiavi che noi abbiamo per aprire questo forziere, che in questo caso è Gerolamo, può essere anche un altro padre della Chiesa. Allora, con questo che cosa voglio dire? Voglio dire che accanto a motivi letterari, motivi esegetici, questo stretto rapporto. Il professore Quacquarelli per un'intera vita ci ha richiamato nella pratica, non nella teoria, ma nella pratica esegetica, nello studio della pratica esegetica, ci ha sempre richiamato sull'importanza da dare alla retorica. Naturalmente, questo è il discorso, l'importanza della retorica, cioè lo studio dei moduli con i quali i padri della Chiesa, diciamo così, fanno la loro esegesi, oppure i moduli dei quali essi si servono quando fanno un trattato, diciamo, di filosofia o di teologia, di spiritualità, un'omelia, eccetera, eccetera, perché sono proprio attraverso, proprio questi moduli, attraverso i quali avviene l'espressione di questo mondo, di questa ricchezza, e quindi praticamente il lettore fa in qualche senso un percorso all'inverso, cioè attraverso la comprensione degli aspetti retorico-formali di un'opera, comprensione che non sia, ripeto, fine a se stesso. È proprio attraverso questa comprensione che noi riusciamo a portare a galla, a portare alla luce quella ricchezza di vita, quella ricchezza teologica, quella ricchezza spirituale alla quale all'epoca di Gerolamo, ma nei secoli successivi, ecco la lunga catena dell'intertestualità, la lunga catena dei testi, delle letterature che si sviluppano nel corso dei secoli, dicevo, a questo patrimonio si è alimentata la Chiesa dei secoli precedenti e, grazie a Dio, continua, soprattutto dopo il Concilio Vaticano. A alimentarsi con maggiore, vorrei dire, consapevolezza e con maggiore forza anche la Chiesa di oggi. Quindi allora un convegno di questo tipo in un istituto di scienze religiose ha la sua importanza. Naturalmente l'edificio si costruisce con vari mattoni, con vari tipi di operai, e allora c'è chi si è occupato della esegesi ebraica, Gerolmo esegesi ebraica, come il collega Leanza, che ha richiamato l'attenzione anche sull'importanza dei realia, perché quando facciamo esegesi noi non possiamo, diciamo così, fare un discorso astratto, perché non c'è nessuno più concreto di un padre della Chiesa. I padri della Chiesa, anche quando facevano un'esegesi che sembrava funambolica, di un allegorismo estremo, in effetti il punto è lo stesso origine, in effetti il punto di partenza era sempre un punto di partenza concreto. Egli ha richiamato quella parola ebraica che non ricordo, che significa da una parte desiderio e dall'altra parte il cappero. Ecco, ora naturalmente anche lo studio di queste piccole curiosità, che naturalmente fino a se stesso non hanno nessun valore, non accrescono cultura, però inseriti in tutto un processo sono utili. Molto probabilmente il cappero ha quel tipo di simbologia, tra virgolette, tutta da studiare, proprio, diciamo così, per la sua conformazione dopo il termine dell'efflorescenza, che è di forma fallica e che anche nelle culture, diciamo, almeno del nostro mezzogiorno, ha questa funzione. Quindi vedi come... Naturalmente io la cosa la dico così, andrebbe invece approfondita sul piano dell'antropologia culturale, sul piano delle tradizioni culturali, e vedere un poco perché, diciamo, nella coscienza popolare ci sono, diciamo così, questi spunti. Ecco, allora questo voglio dire, che anche i particolari, diciamo così, minimi debbono essere sempre oggetto di studio da parte dell'esegeta, cioè non ci possiamo accontentare, diciamo, e quindi continuare una sorta di tautologia per cui si ripete sempre ciò che si sa all'infinito. E quindi questa è la collaborazione che possiamo dare. Il Clausi continua il suo discorso, come abbiamo visto, nel quale richiama l'attenzione su questa visse polemica e come concretamente, con quali strumenti, questa volta attinti dal mondo classico, è vero, si serve Girolamo per dar forza alla sua visse polemica. Il Perrone si è occupato, vi ricorderete, delle questioni paoline all'interno dell'epistolare di Girolamo, e così di seguito il Duval ci ha fatto vedere questa posizione di Girolamo tra Tertulliano e Origene. L'ho riletta, dato che ci ha dato il testo in traduzione italiana, ho avuto modo di rileggere più di una volta e ho visto che effettivamente è ricca di suggerimenti, di spunti, e probabilmente sarà ancora, diciamo, più ricca quando sarà corredata di note, e questo testo sarà mandato al più presto. Ecco, questa volta non lo dico ironicamente, ma lo dico concretamente. Ecco, sarà mandato al più presto perché possa andare in stampa. Il collega Marin ha visto il rapporto tra Ilario e Girolamo, e anche in questo caso ha isolato Ilario e Girolamo, ma non è che abbia, diciamo così, in maniera un po' acritica, non è che ha detto c'è un rapporto. Quando ha fatto gli esempi ha fatto vedere, diciamo così, tutto l'alone che c'era, e quindi tutti i rapporti tra l'uno e l'altro. Il professore Quacquarelli, come sempre, continua a spronarci e a dispensarci, diciamo, lezioni, e egli stesso un po' è il vezzo delle persone non giovanissime, è partito dall'antico lavoro che ha costituito per ciascuno di noi un punto, diciamo, di iniziazione, un punto di partenza nella nostra iniziazione a questo tipo di studi, e poi coerentemente ha diciamo così, dato una serie di nuove puntualizzazioni. E il collega Moreschini, che è esperto di queste cose, anzi soprattutto alle collaboratrici più giovani che stanno qui in aula, io inviterei a leggere l'introduzione che il Moreschini ha fatto alla traduzione di quelle epistole di Gerolamo, che sono state così ben tradotte dal collega Palla. Non perché il Moreschini abbia scoperto o sconvolto assolutamente niente, no, questo sempre nel discorso all'interno della intertestualità, però in poche pagine dà un'idea precisa di Girolamo e anche uno stile accattivante e con una serie di indicazioni parche, perché c'è anche il rischio che quando si danno delle abbondanti informazioni bibliografiche, come purtroppo oggi con l'uso del computer avviene, si finisce con l'affogare in questo mare di erudizione di informazioni. Invece le sue indicazioni sono indicazioni proprio essenziali che consentono una diciamo così, un orientamento facile, nello stesso tempo sicuro. L'ho gustato io, che ho qualche esperienza in più, ma immagino che i più giovani ne trarranno sicuramente giovamento. E naturalmente io mi complimento con il collega Menestrina per il suo lavoro, naturalmente di quel tipo di lavoro che non è facilmente, come dire, riassumibile, cioè io non ne sarei capace, insomma, anche se avessi tempo a disposizione, però ho notato la cribbia con cui l'ha condotto, mi auguro che voglia diciamo fare questa edizione o no, insomma, oppure è soltanto un lavoro di carattere codicologico generale, vabbè, speriamo bene, e che comunque è utile perché ha dato, diciamo così, un altro aspetto a questo convegno, cioè anche il lavoro del puro filologo, che in questo caso puro non ha nulla di spregiativo. E poi oggi pomeriggio avete ascoltato avete vissuto le due belle relazioni delle Fortleben o Nachleben di Girolamo, e ripeto quello che ho detto poco tempo fa, che io mi auguro che in futuro sempre più stretti diciamo, e proficui siano questi scambi di opinioni tra gli antichisti e i modernisti, insomma che proficua diventi diciamo questa simbiosi, no? Questo insieme di forze, questo qualcosa che con termine moderno un po' curioso si chiama sinergia, ecco, questa sinergia ci può portare a qualcosa. A chiusura ovviamente ringraziamo i colleghi dell'Istituto di Scienze Religiose di Trento che ci hanno offerto, anche se però ci hanno fatto lavorare molto perché non abbiamo avuto molto tempo di vedere la città, vabbè, ma giustamente il professore Moreschini diceva che dobbiamo lavorare, non ci dobbiamo distrarre, si è messo proprio nel solco e nella sequela del professore Quacquarelli, che quando a essere schiavista, insomma, è vero o no, nei convegni. Comunque, ora al di là dello scherzo, effettivamente il ringraziamento veramente affettuoso per averci dato l'opportunità di venire qui a Trento, di trascorrere due giorni che sono stati di arricchimento culturale, se consentite anche spirituale. Grazie.